Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 8 marzo 2015, monitoraggio dello stress idrico, nuova frontiera per l'agricoltura tecnologica. Si chiama telerilevamento iperspettrale a immagine e permette di evitare i danni alle colture e ai terreni per la mancanza d'acqua. Finora, infatti, il telerilevamento è stato molto utilizzato, sempre più anche via satellite, ma solo per misurare i danni già prodotti dalla scarsità d'acqua. Questo nuovo modello di indagine, elaborato da un gruppo di studio coordinato dal ricercatore milanese Roberto Colombo, permette invece di rilevare lo stato di salute della vegetazione prima che il danno sia conclamato, con osservazioni anche pianta per pianta e zolla per zolla. Dopo la presentazione dei primi risultati su colture come il sorgo e il mais 3 anni fa, lo studio ha potuto ampliarsi e costituisce ora una base importante per le innovazioni dell'agricoltura di precisione. Fin qui la notizia dell'8 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. La ricerca promossa dall'Università di Milano Bicocca ha già raggiunto alcuni primi risultati interessanti che dovranno essere approfonditi nei prossimi anni. Roberto Colombo, ricercatore dell'Università Statale di Milano Bicocca. Nell'analisi dei terreni, il telerilevamento iperspettrale permette di andare a individuare nello specifico delle piccole bande di assorbimento che i costituenti del mezzo presentano. Per esempio, è possibile andare a investigare delle porzioni molto piccole dello spettro elettromagnetico in cui si osservano delle variazioni legate al contenuto d'acqua della vegetazione. Quindi questo vuol dire che dal punto di vista dello stress idrico noi siamo in grado di misurarlo porzione del terreno per porzione del terreno e quindi di avere un intervento della risorsa acqua adeguato alla singola porzione di terreno. E questo è un po' il fine ultimo, diciamo che se noi riusciamo ad andare a individuare degli stati di sofferenza in modalità precoce, prima quindi che il danno sia conclamato, cioè abbiamo la possibilità di cercare di intervenire in tempi abbastanza rapidi e quindi con degli interventi di soccorso porre rimedio alle situazioni di criticità che si sono verificate. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.